Moon Talk, Sputnik on Radio. Benvenuti a Moon Talk con Chiara e Marta, 94.7 96.250, Radio Città del Capo. Puntata numero 13 dedicata ad Arthur Russell. Bravissima. E diamo le coordinate. www.moontalkradio.blogspot.com e Gmail. moontalkradio@gmail.com. Each step is moving, it's moving me. Moving, it's moving me. Yeah. Every step moving me. Yeah. I am so far. Yeah, it's moving me. This is How We Walk on the Moon di Arthur Russell, o meglio Charles Arthur Russell Jr., che è il nome appunto di Arthur Russell. Oddio. Nacque nel 1951, fu un importantissimo violoncellista, oltre che compositore, cantante e artista disco. Americano dell'Iowa, la sua produzione coprì la scena dance e rock della downtown New York. Collaborò con molti artisti, tra cui Philip Glass, David Byrne e Nicky Siano. Relativamente sconosciuto durante la sua vita, una serie di compilation e riedizioni lo hanno riportato alla luce recentemente. E infatti stasera, oltre che i suoi pezzi, che appunto sono stati riscoperti da recente, comunque sì, di recente, nel 2000, sentiremo anche delle cover di molti artisti che hanno appunto ripreso i suoi pezzi, sì. Li hanno riarrangiati. Appena compiuti 18 anni, Arthur Russell andò a San Francisco, dove visse in una comune buddista e studiò musica nord indiana alla Ali Akbar Khan School e composizione al conservatorio. Durante questo periodo, tra l'altro, conobbe Allen Ginsberg, di cui vi abbiamo parlato nella puntata sul Mad Club, e con cui avrebbe poi collaborato nei suoi reading e che rimase tra l'altro suo amico fino alla morte, assicurandogli anche un posto dove stare, perché Allen Ginsberg era un po' mentore e finanziatore, sì, di molti artisti durante gli anni 70 a New York. Nel 1973 Arthur si trasferisce poi a New York, dove frequenta la Manhattan Music School e la Columbia. Abbandonò poi gli studi in quanto in conflitto con alcuni suoi professori, che consideravano la sua musica una musica di strada, e diventò direttore musicale del famoso locale The Kitchen, che è forse durante lo stesso periodo del MAD, e aveva più o meno anche lo stesso pubblico, però forse The Kitchen era un po' più sperimentale, nel senso che non trattava soltanto di musica o di arte, però anche di performance, di righe, però anche il MAD in effetti. Sì. Forse era un approccio leggermente diverso. Lo storico locale di New York era un grande loft dove artisti di vario genere erano invitati ad esibirsi e dove si festeggiava in continuazione. Nel 1979 scrive Kiss Me Again e lo fa uscire sotto il nome di Dinosaur. È stato il primo singolo disco per la Sire Records, seguito da Is It All Over My Face dei Loose Joints, che andiamo a sentire adesso. Appunto nella sua versione del 1980. We'll be right back. Quindi questi erano i Loose Joints, che è uno dei progetti disco di Arthur Russell. Poi magari più tardi vi farò sentire anche Dinosaur L, che è un altro progetto sempre disco di Arthur Russell. Comunque magari adesso parliamo dei Modern Lovers, che sono un gruppo che ha frequentato molto The Kitchen durante il periodo in cui Arthur faceva il direttore artistico. Sì. Infatti chiamò molto spesso a suonare proprio i Modern Lovers, e vi faccio subito sentire una canzone contenuta nel primo disco della band, che si chiama Hospital. Get out of the hospital. Let me back into your life. I can't stand what you do. I'm in love with your eyes. And when you get out of the dating bar, I'll be here to get back into your life. I can't stand what you do. I'm in love with your eyes. Oh, I can't stand what you do. Sometimes I can't stand you, and it makes me think about me, that I'm involved with you. But I'm in love with this power that shows through in your eyes. I go to bakeries all day long. There's a lack of sweetness in my life, and there is pain inside. You can see it in my eyes. Oh, there is pain inside. You can see it in my eyes. It makes me think about me, that I've lost my pride. But I'm in love with this power that resides in your eyes. Oh. You live in modern apartments. Well, I even got scared once or twice. Last time I walked down your street, there were tears in my eyes. Well, now these streets, we all know, they help us cry when we're alone late at night. Don't you love them too? That where you got your eyes. Oh, and I can't stand what you do. Sometimes I can't stand you, and it makes me think about me, how I'm involved with you. But I'm in love with this power that shows through in your eyes. Now, your world is beautiful. I'll take the subway to your suburb sometime. I'll seek out the things that must have been magic to your little girl mind. Now, as a little girl, must have been magic. I still get jealous of your old boyfriends in the suburbs sometimes. And when I walk down your street, probably be tears in my eyes. I knew it would happen. I can't stand what you do. Sometimes I can't stand you, and it makes me think about me, that I'm involved with you. I'm in love with this power that shows through in your eyes. So, when you get out of the hospital, let me back into your life. I can't stand what you do, but I'm in love with your eyes. E questa era Hospital dei Modern Lovers. Modern Lovers, un gruppo formato da Jonathan Richman, Jerry Harrison, David Robinson e Ernie Brooks. Questa canzone è tratta dal loro primo disco, registrato nel 1976, però che era stato anche registrato nel 1972 con solo 9 tracce. In seguito all'esperienza come Modern Lovers, Jerry Harrison contribuì alla formazione dei Talking Heads, David Robinson si unì ai Cars e Ernie Brooks entrò nella band di Elliott Murphy e Jonathan Richman continuò la sua carriera solista. Oltre a promuovere gruppi appunto come i Modern Lovers al locale The Kitchen, durante questo periodo Arthur Russell ha anche dei suoi personali progetti. Recentemente Chris Taylor dei Grizzly Bear ha da poco fondato una sua label con Ethan Silverman dei Lost Boys e hanno fatto uscire il primo disco da solista di Chris, appunto dei Grizzly Bear, sotto lo pseudonimo Kent, ed è praticamente uno split con una B-side, una sorta di B-side di Arthur Russell con la sua canzone Come to Life, una canzone della fine degli anni 70, mai ufficialmente lanciata, ma che adesso insomma possiamo ascoltare grazie a Chris. Quindi andiamo a sentire Come to Life di Arthur Russell. Step out of the strange light I call the best. For the blankets quilted and handed, and I turn to the stars checking out my bed. Come to life. Come to life. E questa era Come to Life di Arthur Russell, appunto una sua canzone della fine degli anni 70, mai ufficialmente uscita e che adesso possiamo sentire grazie a Chris Taylor dei Grizzly Bear. Comunque nell'inizio degli anni 80, 82, Arthur Russell e William Solkov fondano la Sleeping Bag Records, una label indipendente attiva tra il 1981 e il 92 con artisti come Mantronics, Just Nice, Nice and Smooth e Joyce Sims, oltre a progetti sempre dance di Arthur come Felix e Indian Ocean. La prima uscita della Sleeping Bag Records fu comunque 2424 Music dei Dinosaur L. La canzone Go Bang fu remixato come singolo da Francis questa è difficile Kevorkian. Adesso riuscito a trovare alcune delle uscite della Sleeping Records grazie a Traffic Entertainment Group, si chiama così adesso il distributore. Okay. Comunque andiamo a sentire il singolone che ha fatto ballare tutti nell'inizio degli anni 80, appunto Dinosaur L, quindi un progetto di Arthur Russell, Go Bang. Che groove, Marta? Sì, molto. Ballo. E questa cos'era? Questo è Goi Bang di Dinosaur L, un pezzo famosissimo durante i primi anni 80. I primi anni 80 che Chiara mi ha confessato vuole mettere in un nostro DJ set. Assolutamente, sì sì. Perché dobbiamo anche dirlo che faremo un DJ set, mi pare, il 26 marzo. Sì, il 26. Sì, sì. 26, che non mi ricordo se è un sabato. Un venerdì forse, venerdì. Un sabato. Comunque lo scriveremo nel blog. Al Locomotive. Al Locomotive Club a Bologna. Ok. Invece prima dicevamo che molti artisti si sono poi ispirati ad Arthur e molti hanno anche fatto dei tributi, delle cover, dei suoi pezzi. Sì. Giusto? Sì. La prima cover che voglio farvi sentire è di Vera November. Vera November è lo pseudonimo sotto dietro il quale si cela la cantante dell'Electra Lane, Verity Sussman, che nel 2008 ha partecipato a questo progetto, è un EP chiamato Four Songs by Arthur Russell, in cui oltre a Vera November partecipa anche Jens Lehmann, Taken by Trees e Joel Gibb. Vi faccio sentire la canzone cantata appunto da Vera November, che è Our Last Night Together, contenuta in World of Echo. Oh. Davvero molto bella Marta, però sai, si fa tardi. Non interrompere questa canzone. Era la bellissima cover di Vera November, di un pezzo di Arthur Russell chiamato Our sì, vabbè, lo sbaglio sempre. Our Last Night Together. Adesso invece facciamo sentire un'altra cover, sempre tratta dallo stesso disco, ovvero World of Echo. E questa cover invece è cantata da White Interland, che è una musicista molto giovane americana, con all'attivo, mi sembra, 3 dischi, non di più. E ci ascoltiamo quindi Lucky Cloud. Sarà Lucky Cloud, un pezzo cantato da White Interland. Molto bella. Un'altra cantante che ha fatto una cover di un pezzo di famosissimo, tra l'altro, di Arthur Russell, è la cantante di Everything But the Girl, cioè Tracy Thorn, che è ricomparsa sulla scena musicale nel 2007 con il suo album da solista Out of the Woods, dove compare appunto questa cover di Get Around to It, e dove suona tra l'altro il sax anche Gabriele Andruzzi dei Rapture. Oh. E lo suona molto bene, devo dire. Non avrei mai detto. Tracy Thorn, tra l'altro, è tornata in pista con un altro LP che si intitola Love and Its Opposite e sarà pubblicato il prossimo 17 maggio. Quindi aspettiamo con ansia, vediamo se è bello come è stato Out of the Woods. Quindi andiamo a sentire appunto questa cover di Tracy Thorn di Out of the Woods, da Out of the Woods, Get Around to It. Thank you. Era Get Around to It, rifatta da Tracy Thorn. Tra l'altro vi consiglio anche la versione originale, che è altrettanto, se non di più, bella. Più bella. Più bella, sì. Questa devo dire che mi piace molto, però sicuramente la versione di Arthur Russell originale è incredibile. invece adesso vi vorrei parlare di Joanna Billing, un'artista concettuale svedese conosciuta per numerosi lavori, tra cui You Don't Love Me del 2003 e Magical World del 2005, che ha partecipato anche alla Biennale di Istanbul e ad altre manifestazioni che adesso okay. Non sto qui ad elencare. Okay. E che nel 2007 coverizza per una videoinstallazione il pezzo che abbiamo sentito in apertura. Sì, che si chiama This Is How We Walk on the Moon, che ci sembrava adatto per aprire Moon Talk. Proprio quello, e adesso ce l'ascoltiamo anche in semichiusura. In semichiusura, ci ascoltiamo Joanna Billing. Each step is moving, it's moving me on. questa era Joanna Billing, cover di This Is How We Walk on the Moon di Arthur Russell. Molto molto bella. Sì, molto carina. Sì, mi sembra che ci stia molto bene. Sì, sarebbe bello poi vedere anche il video. Ah, c'è un però, video. Sì, perché questa canzone è stata fatta per una videoinstallazione. Ah sì, come dicevi prima. Quindi sarebbe bello trovarlo, ma è un po' difficile, non lo so. Okay. Ci proveremo. Sì, ci proveremo. La prossima impresa. Quindi siamo in chiusura praticamente. Sì. Purtroppo. E dobbiamo anche dire che la prossima puntata cioè non ci sarà. Manderemo quindi una replica. Una replica. Sì. Fateci sapere che replica volete sentire. Esatto. Mandando un'email a moontalkradio@gmail.com oppure scrivendo qualcosa sul nostro blog, quindi www.moontalkradio.blogspot.com. Noi rispondiamo sempre ai commenti. Noi rispondiamo sempre in un modo o in un altro. Oppure aggiungendoci come amici su Facebook, quindi Moon Talk. Oppure basta. Se vogliono anche mandare un SMS possiamo lasciare. No. Niente. No. No, mi sembra che basta, l'email, il blog. Sì, ok. E quindi come ultimo pezzo io vorrei mettere I'm Around You, che è un pezzo bellissimo di Arthur Russell. In realtà ho notato che abbiamo messo pochi pezzi suoi. Abbiamo messo i progetti disco che vabbè, sono tra cover, sì, cover. È vero, no, però, forse abbiamo un po' trascurato il suo lato un po' introspettivo, soprattutto degli ultimi anni. No, quindi se volete fare bene i compiti potete andare a cercare il film, sì, che è molto difficile da trovare, però lo potete ordinare, non costa tantissimo. È un film appunto su Arthur Russell che è stato presentato mi sembra 2 anni fa al Sundance. Sì. Se mi ricordo bene. E comunque metteremo il link poi sul blog www.arthurrussellmovie.com. Io l'ho visto l'altro giorno, è bellissimo, molto commovente perché io ho iniziato a vederlo, ma no, quel sito forse non vabbè. Funziona molto bene. Zitta. Comunque no, è molto commovente, parla non soltanto della sua musica ma proprio come di Arthur Russell come persona, che era una persona molto sì molto complicata, però proprio per questo è riuscito a fare cose molto belle. E purtroppo dobbiamo dire che Arthur Russell è morto a una giovanissima età, che non abbiamo a 40 detto. Anni mi sembra, una quarantina di anni, di AIDS e niente, fortunatamente lasciando, ha lasciato, credo, avevo, mi sembra letto su tipo 1000 tracce inconcluse, sì, anche sì tantissimo, no, lavorava in continuazione, quindi si è lasciato tantissime cassettine che adesso piano piano le persone stanno, cioè, tirando fuori, riescono poi a appunto metterli in alcuni dischi e in alcuni compilation, per fortuna, insomma. Quindi vi lasciamo con I'm Around You e ci sentiamo poi il 24, sì, con sì. puntata South by Southwest. Wow. Ok. Ciao a tutti. Ciao. about what I'm doing right next to you. What I'm doing in a fire stretching time. Side of your face. I'll touch. catch the other side, inside of